Buonasera, questa è Banda Armata sulle frequenze di Fuori Onda Radio, in diretta e in differita tutti i giovedì alle 16.30 su Radio Cirome e Radio Transizione di Fase www.radiotransizione di Fase è il sito. Via con la sigla. Ratzinga! San Pietro arriva coi pugni teologici. Ratzinga! Ratzinga! Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male. Se sei nemico prega è già finita la chiesa, ma te ne dice Ratzinga! Ratzinga! Croci rotanti, Ratzinga, Pater Noster, Ratzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né da italiane che cos'è, lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Ratzinga! Con uno sguardo spacca in due conclave, dagli occhi sputa fuori salmi gamma. Non c'è chi è forte più di te, Ratzinga. Ratzinga. Ha la mente di Lutero, ma tutto il resto fa da sé. Non conosce la paura né sa italiane che cos'è. Se hai bisogno puoi invocarlo con la Bibbia. Buonasera da Pierpaolo. Allora, iniziamo questa ennesima puntata di Banda Armata parlando ovviamente della questione internazionale, in particolar modo di ciò che sta accadendo nelle ultime settimane nel Nord Africa, nel Maghreb. Nelle scorse puntate abbiamo un pochettino commentato, raccontato quello che era accaduto dapprima in Tunisia e poi in Egitto. La cosiddetta rivoluzione dei gelsomini in Tunisia è iniziata con dato inizio, diciamo, il suicidio di un giovane venditore ambulante, Mohamed Bouazizi, che poi è sfociata nelle dimissioni, nella cacciata più che altro da parte della piazza del presidente tunisino, nonché dittatore, Ben Ali, che era al potere da 23 anni. A questa prima rivolta tunisina scoppiata per il latte, per il pane, per lo zucchero, che in realtà poi è diventata una battaglia per la democrazia, per la libertà, come gli stessi manifestanti hanno detto, è seguita un'altra importante fase di lotta popolare in Egitto. In Egitto c'era un regime ancora più forte di quello tunisino, capeggiato da Hosni Mubarak, che era al potere da 31 anni, anche lui presidente più volte eletto a furor di popolo, con elezioni a dir poco democratiche, si direbbe, è anche lui cacciato grazie all'ormai famosissima rivolta di Piazza Tahrir. Bene, in questi ultimi giorni, l'ultima settimana, il fuoco della protesta si è spostato di nuovo e stiamo assistendo in questi giorni alla caduta probabile di un altro regime, forse il regime più forte che c'era in Nord Africa fino a per l'appunto a pochi giorni fa. Stiamo parlando ovviamente della Libia del colonnello Gheddafi al potere dal 69, quindi sono quasi 42 anni. L'escalation che è avvenuta negli ultimissimi giorni è stata veramente, veramente eccezionale. Si è partiti il 15, il 16 di febbraio a Benghazi, che un pochettino è stata la città l'epicentro della rivolta popolare. Benghazi si trova nella costa libica nella zona est, è seconda città della Libia e città principale della Cirenaica, che in questi giorni è stata praticamente è passata in mano letteralmente ai ribelli. Bene, il 17 c'è stata la cosiddetta giornata della collera e l'escalation da lì in poi è stata veramente rapidissima. Tutti hanno visto durante gli ultimi giorni sui principali telegiornali italiani, ma non solo, le immagini, le poche immagini in realtà che sono disponibili della rivolta. Negli ultimissimi giorni il regime, mai traballante come ora, ha deciso di mettere in atto delle metodiche di repressione veramente terribili. Stanno utilizzando i bombardieri, stanno bombardando, stanno mitragliando la popolazione che è scesa in piazza a Tripoli e che ha incendiato i palazzi governativi, i ministeri, i posti di polizia. Gheddafi è quanto mai traballante. Oggi ha pronunciato un delirante discorso in cui addirittura diceva che i ribelli sono armati dagli Stati Uniti d'America e dall'Italia. Semmai potrebbe essere il contrario, visto i rapporti strettissimi che ci sono fra la Libia e l'Italia. L'Italia, ricordiamo, è il primo partner commerciale al mondo della Libia, rappresenta la fetta del 17% circa delle importazioni libiche, quindi ci pare alquanto strano che possa succedere una cosa del genere. Quello che sta accadendo quindi in quest'ora è abbastanza difficile anche da capire, perché le vie di comunicazione sono state per lo più tagliate. Facebook, Twitter, ma anche le comunicazioni telefoniche sono diventate praticamente impossibili da utilizzare in questi ultimi giorni, perché il regime ovviamente fa di tutto per non dare nessuna notizia di quello che accade. E in tutto questo il resto del mondo prende tipidamente posizione, ma in realtà sostanzialmente sta a guardare, aspettando che la situazione evolva, senza chiaramente più difendere un leader che non è più tale, un dittatore che fino a qualche anno fa era tacciato di essere dittatore, di foraggiare il terrorismo islamico, che negli ultimi 15 anni invece è diventato paladino delle democrazie cosiddette occidentali, in primis l'Italia e il Regno Unito, che in questi giorni prima di essere costretti a criticare il comportamento del colonnello, hanno espresso più volte, diciamo anche in forma velata, solidarietà nei confronti di Gheddafi. Mandiamo una canzone, un pezzo che rappresenta molto bene lo stato d'animo di molti giovani libici in questi giorni. Organizzato in strada, insurrezione popolare armata, nuova intifada, gente barricata, gioventù incazzata, ogni frontiera bloccata, dalla Sicilia alla Basilicata, dalle campagne donne un giorno qualunque, faranno i nomi degli infami e metteranno il fuoco dentro il bunker, la loro voce darà voce a chi ora tace, e l'ultimo boss sarà l'ultimo uomo di pace, la libertà non si conquista, senza le armi in mano, come Cuba con Batista, dimmi chi è terrorista, fottuto giornalista. vista. La mafia è nella casa del politico che paga la tua rivista. Un solo grido e stavolta non è allo stadio. Il suono dei ribelli passa in radio. Racconta che un pentito vuole protezione, ma chi protegge il mio popolo da ingiustizie ed oppressione? Un clima di tensione. Gli occhi dei vecchi sanno chi ha mentito, ma l'omertà alle volte è l'unica salvezza per chi ha sentito. E anche gli sbirri bruceranno la divisa con la dignità uccisa. Se non c'è più tempo per ripensamenti orese, niente politichese o finti pacifismi da democrazia borghese. Qui si libera sta terra, qui si fa la storia. Ora, pugni in alto e resistenza sonora. Non abbassare la tua testa, tu non farlo mai. Non devi dargliela per vinta, no, non farlo mai. Se senti vento di rivolta te ne accorgerai. Ora è sempre resistenza. No, io no che non mi arrederò. Col fucile io camminerò sulla strada per la libertà. Se sta terra non salta tu capo. Perciò ogni giorno io combatterò. Questa è l'unica cosa che so. Sulla strada menti al PM di Milano, ad Arcore è nascosto il vero Provenzano. E se dici che la mafia è un'invenzione di Saviano, la camorra ricicla il denaro del Vaticano. È chiaro, chi ha perso la voce non ha capito che un leone non fa caccia prima di aver ucciso. E se la testa non ti basta per abbattere il nemico, spara ora perché il tuo tempo non è finito. E finché un latitante arregge, un Cristo che impone arbitrio, tu non affidarti al cielo se st'inferno è un suicidio. Mentre chi governa vende armi e vittime al cecchino, l'antimafia dorme nella villa del padrino. Ma se la rivolta piange negli occhi del tuo vicino, sarà il fuoco di un brigante a illuminare il suo cammino. Se ogni giorno chi ha paura muore con il suo destino, io morirò una volta sola come Borsellino. Io morirò una volta sola come Borsellino. No, io no che non mi arrenderò. Col fucile io camminerò sulla strada per la libertà. Se sta terra non sa da tu capriccio, giorno io combatterò, questa è l'unica cosa che so, sulla strada per la libertà e col nemico nessuna pietà. È resistenza sonora, in strada e sulla scena, scrive contro informo, contro il cloroformio del sistema. Si combatte il suono, butta giù le maschere, tre quarti del music market non ha carattere. Nuovi guerriglieri, briganti come ieri, non voglio boss ma nemmeno spirri e giustizieri. Battaglia in strada come a Santa Clara, e una maglietta di Guevara vale solo quanto l'hai sudata. Passa parola come si passa la giolla, dai una lezione di storia ai boia chi molla. Partono ancora i treni per Reggio Calabria, ed ogni strage che si insabbia fa più aspra la nostra rabbia. Dedicato alle radici dentro, a chi sta al nord da 30 anni e non ha perso l'accento. Rivoluzione in ogni mia parola, e nella gente che la suona, resistenza sonora. Non abbassare la tua testa, tu non farlo mai. Non devi dargliela per vinta, no, non farlo mai. Se senti vento di rivolta te ne accorgerai. Ora e sempre resistenza. No, io no che non mi arrenderò. Col fucile io camminerò sulla strada per la libertà. Se sta terra non sa da tu capo. Perciò ogni giorno io combatterò. Questa è l'unica cosa che so. Sulla strada per la libertà e col nemico nessuna pietà. E dopo la descrizione di quello che sta succedendo in Libia, passiamo un po' a qualche commento. Prima che Pierpaolo approfondisca un po' la questione, al microfono è Flavio, approfondisca un po' la questione degli interessi economici che stanno in territorio libico e più in generale nel territorio del Nord Africa. È interessante leggere, insomma, capire un po' in quali relazioni è l'Italia con la Libia, e si capisce più o meno dalle reazioni che in questi giorni si sono registrate a quello che è un vero e proprio omicidio di massa da parte del generale Gheddafi, che bombardando le sue stesse città ha già ucciso più di 1000 persone. Stiamo parlando delle persone che dovrebbero essere, insomma, la popolazione del proprio paese. Dopo una reazione timida del nostro Presidente del Consiglio, che ricordiamo è stato autore in questi anni di alcune delle più vergognose pagliacciate in campo di politica estera, di cui si ricorda il nostro paese, che comunque di pagliacciate ne ha fatte tantissime. Ricorderete la mega tenda a Roma in cui sono state fatte posare centinaia di hostess, e pensare che quello è stato definito dal Presidente del Consiglio un grandissimo passo avanti per quanto riguarda le relazioni fra Italia e Libia. Chiaramente c'era semplicemente da fare alcuni accordi di stampo economico e di stampo politico, reazionario, in quanto gli accordi tra Italia e Libia non prevedono altro che l'importazione di gas e un accordo per quanto riguarda i flussi migratori. E sono stati proprio i flussi migratori che più che altro hanno interessato la politica italiana in questi giorni per quanto riguarda l'enorme strage della Libia. Il ministro degli esteri Frattini ha subito precisato che con quello che sta accadendo in Nord Africa, abbiamo già visto i vari sbarchi degli immigrati tunisini, ha precisato che con quello che sta accadendo in Nord Africa si rischia una vera e propria emergenza, come se non fosse già da emergenza il fatto che alcuni bombardieri uccidono 1000 persone in un paese. Un paese fra l'altro alleato da un punto di vista economico. Ma la cosa ancora più ridicola è stato l'intervento di oggi in Senato da parte del presidente Schifani, che accusato, incalzato da un'ipocrita posizione di parteggiare, di spalleggiare il governo libico, ha risposto che mai un governo democratico quale quello italiano potrebbe appoggiare la repressione violenta dei movimenti di massa. Chiaramente si tratta di cose diverse, ma come se questo governo, così come gli altri governi, non ci avessero massacrato in più occasioni in piazza, quando semplicemente non facevamo altro che difendere i nostri diritti e chiedere la democrazia. L'ultima volta è successo il 14 dicembre, quando una folla legittimamente chiedeva di andare sotto il proprio Parlamento a chiedere dei provvedimenti che cambiassero direzione in termini di università, in termini di precarietà, in termini di territorio. Questo governo, la nostra democrazia, così come fa sempre, ha risposto con i manganelli, ha risposto con i caroselli in Piazza del Popolo, ha risposto col sangue di piazza, ma non solo. Quello che differenzia la nostra democrazia da quelle dittatoriali dei paesi del Nord Africa è che il giorno dopo ci arrestano, perché dopo averci massacrato in piazza, il giorno dopo ci denunciano andando a reti unificate dicendo che siamo una massa di farabutti, una massa di lestofanti. Questa è l'emblema di quanto siano ipocrite le democrazie occidentali. Non è un caso che sono piuttosto timide, saranno timide fino a che non vedranno il regime di Gheddafi cadere, e quindi finché non dovranno fare accordi economici e politici con un altro governo. E sono proprio accordi economici che hanno spinto in questi anni le democrazie occidentali, in primis l'Italia, a difendere, ad osannare, a celebrare il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Dicevamo precedentemente, l'Italia è il primo partner mondiale commerciale della Libia. 6,8 miliardi di euro è la cifra che rappresenta l'interscambio fra i due paesi, una cifra enorme. Basti pensare alla questione del petrolio. La Libia è uno dei principali paesi dell'OPEC, dell'Organizzazione Mondiale del Petrolio in pratica, e l'Italia importa il 25% del suo petrolio, il 12% del suo metano dalla Libia, quindi buonissima parte di tutto ciò che noi tutti i giorni utilizziamo sotto forma di combustibili e di plastica proviene praticamente dai giacimenti libici. Non solo, l'Italia, molte delle grandi multinazionali italiane lavorano, hanno enormi commesse in Libia. L'Impregilo, per esempio, ha commesse per 360 milioni di euro a Tripoli e in altre città, altri 4 per la costruzione di edifici, di palazzi e di altre strutture, 400 milioni di euro per la costruzione di centri universitari e ha già realizzato porti, aeroporti, ministeri, centri industriali e altre ancora. Altre società ancora grandi. Prima di andare avanti, ricordiamo che l'Impregilo è la ditta appaltatrice dei lavori del ponte sullo stretto, di alcuni rifiuti e anche dello scandalo della Maddalena sul G8. Ancora Finmeccanica, 840 milioni di euro per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di telecomunicazioni. Ma oltre a questo ricordiamo il trattato d'amicizia del 2008 con la quale l'Italia risarcisce praticamente la Libia per l'epoca coloniale, realizzando infrastrutture per 5 miliardi di euro, di cui poi queste grandi multinazionali sono le prime beneficiarie, non è il popolo libico che ne va a beneficiare. Il rapporto commerciale non porta soltanto chiaramente l'Italia a guadagnare con la Libia, ma anche viceversa. La Libia, attraverso, o meglio, la famiglia Gheddafi, attraverso una serie di fondi di investimenti, è presente nei CDA di diverse banche, di diverse multinazionali italiane. Possiede l'1% di Eni, il 7,2% di una banca che è stata inserita ai clamori della cronaca ultimamente, Unicredit, il 7,5% addirittura di una squadra di calcio, la Juventus, il 2% di Fiat, e qualche anno fa si arrivava addirittura al 5,6%, e il 2,1% di Ansaldo, che è azienda che si occupa tra l'altro anche del nucleare. Oltre che dello smaltimento dei rifiuti, così come tra l'altro pure l'Impregilo, come ricordava Flavio. Quindi i legami che ci sono fra la Libia e l'Italia vanno oltre a quello che diceva Berlusconi durante i pomposi festeggiamenti romani, immersi tra belle ragazze che andavano a seguire in minigonna corsi sul Corano impartiti dal colonnello Gheddafi. In realtà i rapporti commerciali che intercorrono fra Libia e Italia sono il grande motivo di questa grande unione. Non è una questione legata all'immigrazione. Più volte negli ultimi anni, negli ultimi giorni ancora maggior ragione, Gheddafi ha detto: o ci lasciate stare o non appoggiate i ribelli, oppure vi mando i barconi di poveri disgraziati sulle coste siciliane, a Lampedusa o a Crotone. Pensate il paradosso che barconi pieni di disperati possono diventare addirittura una minaccia delle burocrazie occidentali, oppure dei regimi dittatoriali con cui spaventarsi a vicenda, no? Pensate un po' la disperazione di questa gente, com'è ancora più crudele e strumentale. Infatti forse non grottesco, perché più che altro è drammatica una situazione del genere. Si barattano i diritti, la disperazione di tante persone che se ne vanno dalla loro terra in cerca di un futuro migliore. Si barattano per l'appunto il futuro di queste persone con petrolio, con metano, con soldi, in sostanza. È quasi come minacciare: ti mando la peste, no? Ti mando gli immigrati. Ti mando gli immigrati, anche perché sanno che in Italia c'è un signore che ha la bandiera verde, così come Gheddafi, ovvero Bossi. Condividono questo colore, anche se da posizioni totalmente differenti. In realtà l'uno vuole minacce di mandare gli immigrati, l'altro non lo vuole, quindi si trovano sostanzialmente d'accordo sul come trattare queste povere persone. Bene, dopo questo lungo pippotto mandiamo un'altra canzone. A dopo. Allora, una delle colonne portanti, diciamo, di questa fase di rivolte nel Nord Africa, nel Maghreb, abbiamo detto, sono stati i social network, internet in generale, che hanno assunto una forza e una forma particolare, perché sono stati il principale strumento di comunicazione che i giovani, specialmente le giovani generazioni, hanno utilizzato in queste settimane, in questi 2 mesi di rivolte. Bene, adesso Natale ci spiegherà un pochettino cosa e come stanno utilizzando praticamente i giovani tunisini, i giovani algerini anche, i giovani egiziani, i giovani libici per comunicare durante queste settimane di rivolta. Ciao a tutti, sono Natale, saluto tutti gli amici di Banda Armata. Noi facciamo una trasmissione, si chiama Mozilla Bros, e stiamo parlando appunto di questo. L'altra volta abbiamo fatto una puntata appunto sulla censura in rete e come reagire a questo tipo di censura, tipo questi regimi dittatoriali, per esempio in Iran, in Egitto, abbiamo visto adesso in Libia, come avviene la comunicazione delle persone, soprattutto giovani, che sono cresciuti con questo, sono cresciuti nel web 2.0, tra virgolette, e desiderano comunicare e far sapere al mondo intero quello che i loro regimi non vogliono che si sappia, che vogliono celare, vogliono nascondere le nefandezze delle loro dittature e di ciò che fanno. E per esempio in Libia c'è stato appunto il colonnello Gheddafi che ha tagliato internet, e quindi la gente si è ritrovata a non poter comunicare. E quando avviene questo, la domanda che ci siamo posti: ma quando viene chiuso, tra virgolette, chiuso internet, come si fa ad andare su internet? C'è una puntata dei South Park, per chi non lo conoscesse, un cartone animato, in cui avviene lo sgomento delle persone perché vedono che gli viene chiuso internet ed escono pazzi. Allora, internet in questa puntata è rappresentata come un router gigante. Questa è un'esasperazione del bisogno di internet di noi occidentali per cavolate, fra virgolette. Però internet ci serve per comunicare, per fare sapere al mondo notizie appunto che non magari non possono essere dette, come avviene in questi paesi in cui l'informazione è controllata quasi al 100% dal regime. E quindi che è avvenuto? Soprattutto nei social network è incominciato il tam tam, il passaparola su quello che avveniva. Non so se ricordate, per esempio in Iran c'è stato Twitter, che è un social network un po' meno invadente di Facebook, più orientato agli scambi di messaggi brevi, in cui avvengono le notizie, i link, i video sulle varie manifestazioni che si svolgevano. Questo avveniva anche in Libia, fino a quando il colonnello Gheddafi non ha deciso di tagliare internet, appunto, e quindi non era possibile la comunicazione all'esterno, e quindi il mondo non poteva sapere cosa avveniva e non potevano essere visti magari i vari video. Come si potrebbe aggirare questa chiusura di internet? Ce lo siamo chiesti anche noi, abbiamo chiesto al nostro esperto Marco Nosendai, e ci ha detto che lui ha contribuito a fare questa cosa. La community ha contribuito a fare questa cosa. Basta, praticamente, se viene chiuso internet, bisognerebbe intervenire a livello telefonico, ovvero fare chiamate non so se vi ricordate i vecchi 56k, i modem dial-up, fornire connessioni di questo tipo. Quindi basta fare una telefonata e si può accedere a internet con quel tipo di connessione. Abbastanza lento per i nostri standard abituati ad essere, ma che ci permette di aggirare queste censure che vengono imposte dall'alto, perché chi controlla internet è quello che ha le redini del paese, che controlla l'informazione in generale, e quindi è possibile comunicare e accedere all'esterno. Questo è avvenuto in Libia, per esempio, è avvenuto in Egitto, è avvenuto in Iran. Ci sono delle community che si sono adoperate a questo scopo. Per esempio c'è la community di Avaaz, il sito è avaaz.org, che è una specie di social network, ma social nel senso non social web, sociale, cioè persone che condividono una certa umanità, e quindi lanciano un appello e ci sono stati dei vari aiuti per far sì che questo avvenisse. Ora magari vi sto, tra virgolette, inciotando di parole, ma è quello che è avvenuto in Libia. Il colonnello ha chiuso internet, ma c'è una community, c'è una socialità che si adopera affinché le informazioni possano appunto uscire fuori e che la verità possa venire a galla, insomma. Quindi lui può chiudere internet quando vuole, ma si troverà sicuramente un modo per aggirarla, perché non si può chiudere la comunicazione nel modo totale assoluto, non gli conviene neanche a lui e alle sue varie amanti e donne del suo harem, magari. Questo è il bello della rete, una cooperazione orizzontale che non ha bisogno di padroni, appunto, fra virgolette. Ho chiuso il mio intervento prolisso in questo modo. Vi saluto tutti, grazie. Grazie molto Natale per queste informazioni e questo punto di vista utilissimo, oltre che comunque condivisibile. Chiaramente grazie alla rete si sono innescati molti processi che in altri tipi di rivolte nella storia non c'erano. Gli stati tentano di trovare un rimedio, però a quanto pare, anche come ci rassicura Natale, che è più esperto di noi, non riusciranno a farlo totalmente, per quanto ci rendiamo conto che probabilmente questo senso di impotenza poi ha scatenato la follia di Gheddafi, che addirittura ha fatto bombardare il suo popolo. Andiamo con un pezzo dalla regia di Peppe Lounge. Cosa ci suggerisce? Le luci della centrale elettrica, vai! Negli appartamenti subaffittati, sulla scia dei carri armati parcheggiati, senza toglierci le scarpe ci siamo addormentati. Provvistando tra i futuri più probabili, voglio solo futuri inverosimili. E non avere mai le mani fredde, e non finire mai le sigarette, e proteggimi dai lacrimogeni e dalle canzoni inutili, e proteggimi le sopracciglia dai manganelli, e non scrosciare delle piogge acide. Portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere, portami a bere dalle pozzanghere. Ed eccoci nuovamente in onda. Dopo aver doverosamente parlato di ciò che succede qualche centinaio di chilometri più a sud dell'Italia, anzi della Calabria direi, che siamo ancora più vicini, vediamo un pochettino i fatti di casa nostra, come si potrebbe dire. Parliamo in particolare di quello che sta succedendo all'Università della Calabria, in realtà quello che sta succedendo in tutti gli atenei italiani. Tutti ricordiamo benissimo ciò che è successo fino a due mesi fa, le grandissime mobilitazioni che anche qui hanno portato all'occupazione della Lomagna, del Rettorato, e tante manifestazioni tra fine novembre e prima di Natale, quindi nell'arco di 4 settimane. Purtroppo il decreto Gelmini è diventato legge e in queste settimane tutti i rettori italiani hanno nominato delle commissioni che dovranno occuparsi nei prossimi 6 mesi di riscrivere per intero gli statuti di Ateneo. Anche qui il nostro buon rettore Giovanni Latorre ovviamente non si è tirato indietro e ha velocemente nominato i 15, o meglio 14, più proprio il rettore del quindicesimo, che dovranno occuparsi di scrivere questo nuovo statuto. Ovviamente il rettore ha fatto i suoi porci comodi, il rettore ha nominato chi voleva all'interno di questa commissione, e chiaramente già tutto è abbastanza incamminato verso la giusta direzione, ovviamente. Il rettore già sa benissimo quello che dovrà farsi. Ebbene, dopo aver fatto tutto, quindi a giochi fatti e bocce ferme, ha deciso, per pura operazione di facciata, di convocare, guarda caso, un'assemblea d'Ateneo, cosa che non aveva mai fatto il buon Giovanni Latorre, un'assemblea d'Ateneo per il 28 di febbraio, proprio per sentire un pochettino tutte le componenti dell'universitario, dagli studenti fino ai presidi di facoltà. Ci sembra abbastanza strana sta mossa. Non ha mai convocato un'assemblea d'Ateneo in questi ultimi anni, nonostante il governo facesse tutti i giorni qualcosa di abbastanza grave nei confronti dell'università pubblica. Ora, guarda caso, dopo aver subito l'ennesima botta, forse quella finale, al sistema dell'università pubblica, il rettore tutto un tratto si sveglia e chiama un'assemblea di Ateneo, così, nel pieno della fase di riscrittura dello statuto. Quindi, vabbè, sinceramente, per fare il tuo commento, mi sembra fazioso e assolutamente strumentale. Il rettore, a termine di un processo democratico con cui in questi anni, in questi 13 anni, ha gestito la nostra università, si rende conto della fine, diciamo, dell'epilogo della storia della nostra università, dell'università pubblica italiana, così si accinge a porre l'ultima pietra attraverso quello che ha contraddistinto un po' la sua gestione all'interno della nostra università, ovvero una assemblea aperta a tutti, dove possono intervenire gli studenti, i ricercatori, i rappresentanti dei ricercatori, i presidi, i cani randaggi, che non per tutti sono un problema. No, io volevo chiedere una cosa al rettore, visto che in passato più volte gli abbiamo chiesto: rettore, ma come mai non convoca un'assemblea? E lui, tutte le volte che l'abbiamo domandato, ci ha risposto: ma io non posso convocare un'assemblea, la dovete convocare voi. Ma dico, da ieri ad oggi che cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Lo dico io che cosa è cambiato. Il fatto è che lui in questo momento vuole una legittimità da parte di tutta l'università per un modo di agire che invece è assolutamente autoritario e verticistico. Cioè, le sue motivazioni che ha dato in questa magnifica chiamata, anche se vogliamo un po' una chiamata epica, no? Facciamo di questa università un'università migliore, eccetera, nonostante le baronie, nonostante quello che sono stato costretto a fare per fare la commissione. Cioè, lui la pone su questi termini: i tempi sono stretti, io non potevo dare spazio alla democrazia, perché in questi casi è meglio seguire la legge, diciamo, tal quale, così com'è, perché ci garantisce dei processi più veloci. In altre università, mi viene da pensare per esempio una, quella di Trento, questa cosa non è stata vera. Si è fatta la commissione statuto, ma si è fatta con un'assemblea, appunto, in cui si è votata la commissione statuto, che poi è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Senato. Questa assemblea ha avuto la partecipazione, ovviamente non non ha avuto un suffragio, c'è, cioè, una votazione a suffragio completamente universale, gli studenti non c'erano, però tutte le componenti della docenza universitaria e le cariche come rettore, eccetera, eccetera, si sono espressi, hanno parlato e hanno discusso. Guarda caso, in quell'assemblea il primo dei votati è stato un ricercatore. Il processo è questo, il processo che lui voleva evitare era questo, forse. Cioè, lui voleva evitare, ovviamente, facendo le cose a porte chiuse, eccetera, che si smantellasse in qualche modo quello che era il mantenimento dello stato attuale di cose. Cioè, la commissione statuto attuale non mi sembra che abbia questo spunto di gioventù e questo spunto di novità che possa rinnovare l'università. Beh, del resto la commissione statuto ha ben poco da rinnovare, dal momento che non dovrà far altro che prendere le direttive del DDL, quelle principali, quelle che per esempio aboliscono le facoltà, quelle che sanciscono dei criteri discrezionali, e tentare di farne l'uso migliore, dove per uso migliore significa adattarsi al bilancio, dove per bilancio sta quel bilancio tagliato di 1.550 milioni di euro, al di là poi delle briciole ridate dopo, tagliato dei finanziamenti del governo precedente, che comunque aveva tagliato, ma che poi dopo aver tagliato aveva girato alcuni soldi. Quei soldi sono spariti nelle mani di Tremonti. Questo è quello che deve fare la Commissione Statuto, nonostante in realtà la Commissione Statuto non avesse altro che il compito di recepire le direttive dall'alto. Il nostro rettore, al di là dell'ironia, ha convocato un senato accademico e un consiglio di amministrazione nello stesso giorno per fare in modo che non ci sia nessun neanche il tempo di recepire le proposte del senato accademico prima che andassero nel consiglio di amministrazione. Questa è stata un'arma. Un gesto piuttosto palese della volontà del rettore. E quello che dicevo prima si sostanzia in questo fatto, si sostanzia nel fatto che la nostra commissione statuto è una commissione che, a parte un ricercatore che è stato scelto dall'assemblea dei ricercatori, dimostra, diciamo, tutta la polvere che c'è sul tavolo della sala Guarasci, cioè dimostra l'assoluta non volontà di cambiamento che ha questa università. Sostanzialmente io personalmente mi aspetto un aggiustamento, diciamo, maccheronico dell'Università della Calabria rispetto a quelle che sono le direttive di legge, ma che di fatto manterrà a sottolineare quello che dicevamo noi, che abbiamo sempre detto, ovvero sia che questa riforma non è una riforma contro i baroni. Saranno loro a riformare l'università e saranno loro a mantenere quelle che sono le loro cariche o affini, diciamo, cambieranno nome, eccetera, eccetera, a mio parere. C'è sicuramente un rischio dietro la Commissione Statuto, dietro il cambio radicale del regolamento d'Ateneo, dello Statuto d'Ateneo, e dietro questa riforma che fino ad oggi hanno deciso i baroni. Gli studenti non possono essere sicuramente felici di questo, e noi andiamo contro questo tipo di impianto. Cioè, il rischio che domani non decidano neanche più loro. Forse in questo va questa riforma, in questo forse si tenta di colpire in qualche modo i baroni, perché la prospettiva è quella di rendere le università assolutamente permeabili da influenze esterne, da influenze private, da influenze di grandi investitori. E quindi in questo caso non decideranno più i baroni come classe all'interno della nostra università, decideranno magari i baroni che avranno saputo avere gli agganci con l'impresa giusta, i baroni che avranno i parenti nel CDA giusto, i baroni che avranno saputo recepire le direttive di qualche grosso investitore, che le faranno veicolare all'interno dell'università, dove poi comanderanno attraverso questo tipo di investimenti. Questo probabilmente è un rischio. Intanto questo processo ha ovviamente poche vittime. Questo processo ha poche vittime che evidentemente per il nostro rettore, per i nostri consigli di amministrazione, per i nostri senati non contano un cavolo. E queste poche vittime sono gli studenti che, a causa dei tagli, stanno iniziando a riempire in folla, a fiotti, quelli che sono tutti i call center che stanno nascendo come fragole, diciamo, nell'interland dell'università. È pazzesco questo. E questa è una cosa che secondo me domani dovrà essere affrontata da quelli che dicono di lavorare per gli studenti e dicono di voler migliorare la loro condizione, perché si tratta sostanzialmente della preclusione di alcune fasce sociali all'istruzione superiore. Quella che una volta si chiamava università di classe, cioè un'università non accessibile a tutti. Con quest'ultima considerazione di Gustavo, che mi ha ispirato un po' i call center fragole nel giardino dell'università neoliberista, Peppe Lounge, che ovviamente dopo farà il suo solito intervento classico della trasmissione banda armata da parte della cabina di regia, una delle cabine di regia più interattive, mi viene da dire, dell'etere del web radio, ci manda un pezzo. Vai Peppe Lounge. Forse a quel triste malato di cuore, o amiche che si è sentito solo, tanto che dalla prigione uscì in volo. Dimmi che voce ha davvero quel suonatore ubriaco e sincero, che mai chiede un solo pensiero, non al denaro, all'amore né al cielo. Cantavi che un diamante non ha il cuore. Avevi ragione tu quando mi dicevi che dall'etame nasce sempre un fiore. Da quando stai sulla collina niente è cambiato, tutto è come è stato prima. C'è ancora gente che si proclama assolta, ma come una volta. È sempre per sempre coinvolta. Di chi vorresti incontrare? Forse Jamila lasciata per mare. O la signorina Anarchia nel suo taglier grigio di nostalgia. Chiedi se Dio ha sentito i versi del testamento di Tito. Senti a che campo c'è stato, o se davvero l'amore è un peccato. Avevi ragione tu quando mi cantavi che il diamante non ha cuore. Avevi ragione tu quando mi dicevi che dall'etame nasce sempre un fiore. Da quando stai sulla collina niente è cambiato, tutto è come è stato prima. C'è ancora gente che si proclama assolta, ma come una volta. È sempre per sempre coinvolta. Sempre per sempre coinvolta. Sempre per sempre coinvolta. Sempre per sempre coinvolta. Tutto è come è stato prima. C'è ancora gente che si proclama assolta, ma come una volta. Come una volta. Come una volta. È sempre per sempre coinvolta. E allora, in tutto questo ci siamo dimenticati di fare una cosa molto importante, Flavio, ovvero gli auguri al nostro carissimo, amatissimo rettore, che quest'anno spegnerà le 12 candeline, farà 12 anni da quando è diventato rettore, ma siccome è molto affezionato, vuole molto bene noi studenti, all'università, a questi cubi di cemento, allora ha deciso di prolungarsi per il nostro bene, per il bene della comunità universitaria, di altri 2 anni il suo mandato. Già a suo tempo aveva modificato lo statuto, aveva fatto modificare lo statuto per poter fare un suo terzo mandato. Lo statuto imponeva al massimo 2 mandati. Ha finito il terzo, non contento di ciò, chiaramente dice: no, ma perché me ne voglio andare? Sto tanto bene in Aula Guarasci, sto tanto bene al palazzo dell'amministrazione, e quindi ha deciso di prolungarsi altri 2 anni. Per effetto della stessa legge Gelmini, che se da una parte diceva di voler limitare in realtà il numero di mandati e quindi la durata della carica di rettore, da un'altra parte, come spesso fa questo governo, aveva inserito una piccola postilla, un piccolo cavillo che consentiva praticamente ai rettori di prolungarsi altri 2 anni praticamente il mandato. Quindi diceva tutto e il contrario di tutto, come sono spesso abituati a fare quando millantano di scrivere, di mettere in atto qualche legge un pochettino più giusta di quello che fanno normalmente. Anche in questi casi qui l'imbroglio c'è sempre. Quindi il nostro rettore farà i suoi bellissimi 14 anni di rettorato, dopodiché non si sa mai, potrebbe fare anche lui un colpo di Stato, potrebbe anche lui mettersi le stellette alla Gheddafi e autoproclamarsi colonnello, imperatore, chissà che cosa, dell'Università della Calabria, tanto. Il colonnello La Torre è un'immagine, potremmo proporre a quei bricconcelli che fanno i fotomontaggi con la faccia di La Torre di fare un fotomontaggio con al posto della faccia di Gheddafi metterci La Torre. In ogni caso, chiaramente noi siamo assolutamente contenti di questa sua permanenza all'interno dell'università. Diciamo che per riportare un po' il paragone, noi amiamo La Torre come i libici amano Gheddafi. In ogni caso, l'importante è che non ci bombardi, ancora? Beh, in un certo senso non può farlo. La cosa simpatica già che stasera siamo in tema di paragoni fra dittature nordafricane e pseudodemocrazie occidentali. La cosa, a parte sempre ribadendo, citando sempre Giovanni La Torre, dicendo questo paese è diverso dall'Iran, la cosa simpatica dei paesi occidentali è che si autoregolano, no? Perché questo è il bello della democrazia, si autoregolano, no? Per esempio ci sono delle regole del tipo, faccio un esempio a caso, no? La stessa persona non può essere consigliere regionale e sindaco. Perché c'è questa regola? Perché lo Stato democratico italiano si autoregola, no? Cerca di non accentrare i poteri. Cerca di bilanciare i vari poteri che potrebbero accumularsi nelle mani della stessa persona. È strana questa cosa qui. Poi appena c'è la possibilità, per esempio mi viene in mente uno, come si chiama? Giuseppe Capù qualcosa. Appena c'è la possibilità che un consigliere regionale possa diventare sindaco, arriva in consiglio regionale una mozione, viene approvata e lo stesso consigliere regionale può diventare sindaco. Il bello dello Stato democratico è che si autoregola e si toglie la regola appena. È un po' quello che ha fatto La Torre, no? Un rettore non può stare in carica più di 2 anni. E poi lo stesso rettore. Più di due mandati. E poi lo stesso rettore cambia lo statuto e può stare. Questa è una cosa che in Italia abbiamo visto più e più volte, no? Si pensi all'immunità, si pensi all'equilibrio, si pensi allo scontro in atto fra due poteri dello Stato, che non sono due poteri, dice il potere popolare, sono due poteri dello Stato che hanno una vera e propria guerra, perché l'uno non sta bene l'altro, cioè il potere politico non sta bene il potere giudiziario. Ora, è chiaro che il potere giudiziario in questo caso sembra fare la parte dei deboli e cose del genere. In realtà il potere giudiziario, dal mio punto di vista, non fa altro che preservare le sue doti, le sue veci all'interno di questo Stato. In ogni caso, ripeto, noi siamo assolutamente felici che La Torre resti altri 2 anni, anche perché altrimenti non sapremmo poi con chi prendercelo. Un po' La Torre è stato un po' il parafulmini, no, in tutti questi anni. Lo ricordiamo, nel 2008 lui addirittura salì sul nostro camioncino, te lo ricordi, per favore? Salì sul nostro camioncino durante la partecipatissima assemblea di Ateneo, tenuta addirittura fuori dalla lavagna, perché 4-5 mila persone ad occhio, se non di più, non potevano mai entrare all'interno della lavagna. Addirittura La Torre salì sul nostro camioncino, salì a dire: ragazzi, ma facendo una sorta di paternale, neanche fossimo ragazzini delle elementari, ragazzi, ma state tranquilli, ragazzi, ma non sta succedendo niente, alla fine la legge riusciremo prima o poi a contrastarla, non occupate, andate a fare lezioni, ci pensa papà, ci pensa Giovannino. Difatti poi il rettore, ovviamente, come noi ben sappiamo, ha fatto tutt'altro. Invece che ostacolare tutti gli altri suoi colleghi, tutti gli altri rettori d'Italia, parte qualche rarissima eccezione, invece di ostacolare il percorso legislativo, prima della legge 133, poi 180, e successivamente della legge Gelmini, che è stata ai noi approvata 2 mesi fa, ha fatto anzi di tutto per favorire, anche perché chiaramente, come si diceva precedentemente, queste sono leggi che non vanno assolutamente contro il potere baronale, contro il potere di chi sta in posizione privilegiata, ma sono leggi che invece vanno esattamente a loro favore. E addirittura il nostro carissimo La Torre salì su quel camioncino per dire: sì, ragazzi, io sono dalla vostra parte. Il tempo poi ci ha detto che in realtà era semplicemente una recita, anche fatta abbastanza male dal mio punto di vista, che in realtà la sua parte era un'altra, non certamente quella degli studenti, non certamente di coloro che hanno diritto a vivere nel pieno una università pubblica e libera. Anticipando un po' l'argomento successivo, mi verrebbe da pensare al sindaco di Marcellinare, che qualche settimana fa ha deliberato la costruzione di una discarica nel suo territorio. Dopodiché c'è stata un'assemblea da parte dell'opposizione, che chiaramente deve spendere elettoralmente il fatto che il sindaco fa costruire una discarica. È intervenuto lo stesso sindaco dicendo: ragazzi, io sono con voi, non voglio la discarica. Ma è stata lui che l'ha deliberata. Mi sembra un po' l'atteggiamento simile a quello del nostro rettore, che comunque, parlando di cose pratiche, mentre saliva sul nostro palchetto cercava il colpo di Aquis, no? Cercava di fare un piccolo gregge di università con cui raccimolare qualche finanziamento, un progetto che poi è fallito, si sono scannati un po' fra di loro. In tutto questo hanno messo in discussione il valore legale del titolo di studio, che è una cosa sacrosanta che appartiene alle università pubbliche italiane. E da lì in poi non ha fatto altro che fare il giro dei quartieri, no? Lui, quando deve prendere una decisione, l'ha fatto anche questa volta per lo statuto, lui fa il giro delle varie facoltà, no? Chiama Peppinello, chiama Mariuzzo, chiama quello, gli va nell'ufficio, si fumano il sigaro, insomma, al di là dell'immagine è questo quello che succede nella nostra università. Immagine assai calabrese da questo punto di vista, molto meridionale nei modi di fare. In ogni caso, per concludere con una sua citazione, lui disse: questo paese è diverso dall'Iran. Noi diciamo che forse siamo in Italia, questo paese è diverso dall'Italia, forse. We'll be right back. Eccoci di nuovo in onda. Cambiamo argomento. Dopo aver parlato dell'università, continuiamo a parlare, diciamo, della città. Qualche settimana fa è arrivata una denuncia ad un compagno, ad un militante antifascista. Perché è arrivata questa denuncia? Torniamo indietro di qualche mese, al 14 novembre, se non vado errando, del 2010, quindi 3 mesi fa. Adriano Tilger, ex militante dell'estrema destra, terrorista nero, più volte inquisito per stragi sulla cui verità giudiziaria ancora tanto dovrebbe essere detto, anzi nulla è stato detto finora, è stato ospitato presso il comune di Cosenza durante un dibattito. Oggi Tilger si è riciclato nelle vesti di ideologo del partito La Destra di Storace, altro picchiatore fascista di qualche anno fa, e dunque quel giorno tutti i militanti antifascisti di Cosenza e non solo sono scesi in piazza, sono scesi davanti al comune per esprimere il loro dissenso verso una operazione di mascheramento, diciamo, delle idee, delle ideologie fasciste che si consumava in quel momento presso il comune. C'è stato quindi un sit-in davanti al comune che voleva inizialmente impedire, per l'appunto, a Tilger di esprimere per l'ennesima volta delle idee folli, xenofobe, razziste e fasciste. Basterebbe dire soltanto questo. Bene, qualche scaramuccia fra polizia e militanti. E allora qualche giorno fa arriva la denuncia per oltraggio, resistenza e lesioni al pubblico ufficiale, neanche si fosse trattato di una guerriglia urbana. Questo episodio ha nuovamente fatto scendere in piazza i militanti antifascisti e tutti coloro che pensano che queste forme di repressione non siano proprie di una società civile, quale chiaramente non è la nostra società. Sabato 19 per l'appunto, in tanti eravamo circa 100-150 militanti antifascisti, abbiamo fatto un sit-in davanti alla prefettura, Piazza 11 a Cosenza, per esprimere quindi la nostra solidarietà innanzitutto nei confronti del compagno che è stato denunciato. E in secondo luogo per esprimere tutto il nostro dissenso verso delle politiche di repressione che ultimamente si stanno susseguendo in maniera sempre più ravvicinata. La Digos di Cosenza non fa altro che mandare denunce, che querelare, che segnalare, mettere in atto come al solito delle operazioni puramente repressive. Ogni forma di dissenso, ogni forma di ribellione ad una società che assolutamente non ci va di vivere in questa forma, in questa maniera, bene, viene ad essere contrastata dall'ufficio politico della questura di Cosenza con denunce, con querele e con processi che poi fortunatamente spesso vanno a finire nella maniera migliore per chi è vittima di questi atti repressivi. Bene, sabato quindi siamo stati in tanti a scendere in piazza e a fare anche un volantinaggio rumoroso per spiegare alla cittadinanza cosa era successo il 16 o il 14, non ricordo bene, vado a memoria, di novembre, che cosa era scaturito da quella giornata di mobilitazione dei militanti della città. 150 persone hanno pacificamente nuovamente manifestato, sempre di fronte ad un plotone di polizia della Celere, davanti a tutto il corpo della Digos riunito dinanzi a noi davanti a Piazza 11, un'orda di terroristi scesi con con i fucili. Un episodio che si ricollega poi a quello che già era successo il 12 di gennaio all'università, quando ci siamo ritrovati con delle forze, con un numero di forze dell'ordine, cosiddette forze dell'ordine, davanti all'aula magna dell'università, semplicemente perché era stata letteralmente militarizzata, e non è la prima volta, semplicemente perché si voleva tenere un'assemblea pubblica per discutere della riorganizzazione delle forme di protesta nei confronti della legge, ormai legge Gelmini, dopo la fase autunnale della stessa. Quindi, diciamo, la Digos continua nel suo percorso di intimidazioni politiche, continua a colpire sempre i compagni più in difficoltà, coloro che già magari sono stati in passato vittime di denunce, di, così come si dice a Cosenza, di lassamistà, e quindi si continua su questa strada. Speriamo che tutti questi processi, come è successo negli ultimi anni, vadano sempre a finire con delle assoluzioni, anche perché spesso le accuse sono veramente ridicole. E quindi, vabbè, io non vorrei fare l'avvocato del diavolo, caro Pierpaolo, però noi parliamo spesso di ricatto occupazionale, va bene? E se parliamo di ricatto occupazionale, non possiamo far finta di non sapere che l'ufficio della Digos di Cosenza fornisce il lavoro a, per esempio, al reparto celere di Vibo Valenzi. Cioè, se questo reparto celere esiste, perché l'ufficio politico di Cosenza ogni tanto gli dà lavoro? Perché se l'ufficio di Cosenza non si inventa la radunata sediziosa degli studenti nel 2009, se non si inventa il processo a Sud Ribelle col PM Fiordalisi che non fa altro che avallare queste tesi, se non si inventa la resistenza al pubblico ufficiale, insomma, poi si prende anche le sue responsabilità, perché prende scoppole tutte le volte che fa queste denunce. Però in tutto questo ha fatto lavorare gente. Qui io manifesto la piena solidarietà a queste persone che da anni, da circa 10 anni, sono nel nostro territorio, che creano posti di lavoro e che danno prospettive ai giovani, perché sono tanti giovani che fanno i concorsi della polizia, nel reparto celere, eccetera, eccetera. Anche perché questa gente qui, lo Stato, con i soldi nostri, gli ha fornito strumenti come il casco, il manganello, il giubbotto antiproiettile. Giacché contro la mafia non ci vanno mai, per cui il giubbotto antiproiettile non gli serve. Ogni tanto il casco e il manganello lo utilizzano. È anche un corretto utilizzo dei fondi pubblici da questo punto di vista, che altrimenti andrebbero sperperati. Quindi stai dicendo che le nostre mobilitazioni, le nostre manifestazioni creano occupazione nella pratica dei fatti? Esatto, sì, noi a volte occupiamo il rettorato, quando occupiamo l'aula magna, quando occupiamo, comunque occupiamo anche qualcuno del reparto celere, occupiamo qualcuno dell'ufficio politico di Cosenza, che poi sono fra l'altro persone squisite. Io sono perfettamente, sono convinto che quando andranno in pensione saranno con noi dietro gli striscioni, anzi lo terranno lo striscione. È una questione occupazionale, in qualche modo si va tutte e due nella stessa direzione, diciamo, no? Morale della favola, viva l'occupazione! Con questo vi lasciamo ad un altro pezzo, che il buon Peppe saprà mandare in onda. Tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana, ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, mette a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode bretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarà individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20-1 è la tua forza, fascio infame. Ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame. Non ti fai vedere in faccia, non serve a niente. Con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sta a sentire, verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere. Violenza

dichiara Riccardo Marcelli, che è segretario nazionale della Wiltshire, organismi che sono obbligati a legiferare per il bene delle comunità governate, che non possono decidere a cuor leggero senza approfondimenti su questioni rilevanti come lo sviluppo e l'occupazione. Quanta saggezza. Abbiamo visto, continua Marcelli, come in altre parti del paese anche le centrali a carbone di vecchia generazione non hanno precluso la crescita dell'agricoltura e del turismo di qualità. Questo è il falso che il segretario nazionale della Wiltshire recita in un comunicato, dal momento che sappiamo benissimo che le centrali a carbone, per esempio di Brindisi, ha sostanzialmente distrutto il turismo e l'agricoltura di quel posto e ha sostanzialmente messo in ginocchio un'economia che prima era fiorente con la coltivazione di alcune specie DOP, DOC o come le volete dire. La cosa è ancora più grave quando si parla di Calabria, nel momento in cui sappiamo che praticamente la WIL sta dietro tutti i comitati pro riconversione, per esempio della centrale del Mercure, della centrale di Rossano, oppure la costruzione della centrale di Saline. In pratica stiamo parlando di energie, e quando si parla in Calabria di energia si parla di lavoro, e quando si parla di lavoro in Calabria si parla di ricatto e di clientelismo, e quando si parla di ricatto e di clientelismo ci sta dietro la classe politica e la classe sindacale. Per questo ci tengo a continuare col comunicato della Wiltshire, che dice, vediamo un po', là. Vivo con la mia famiglia in un comune limitrofo e molto vicino a Civitavecchia. Tra parentesi, Civitavecchia è il posto dove hanno costruito la prima centrale a carbone pulito, almeno secondo l'Enel, d'Italia. L'hanno inaugurata nel 2009 alla presenza illustre del ministro Scajola, allora ministro Scajola, poi dimissionario per scandalo. E l'hanno inaugurata nel 2009, qualche mese dopo, quello che Enel dichiarava come l'impianto tecnologico più moderno al mondo è stato protagonista di un episodio, diciamo, di poca modernità, ovvero è scoppiata una tubatura di ammoniaca che ha ferito una decina di operai e ha ucciso uno di 33 anni. Comunque, vivo con la mia famiglia in un comune limitrofo e molto vicino a Civitavecchia, dichiara Pascucci, e posso testimoniare senza tema di smentita che da quando l'Enel ha riconvertito la propria centrale, la qualità del circondario è molto migliorata. Cioè, significa che questa centrale fa appena appena meno schifo di quella che c'era prima, perché il migliorata non significa che la qualità dell'aria è buona, significa che la qualità è migliorata, e non dice, in questo caso non dice un falso, io glielo devo testimoniare. Cioè, significa che una centrale di 40 anni fa è meglio di una centrale di un anno fa. Questo significa che fa bene? Assolutamente no, sappiamo benissimo che fa malissimo, perché emette polveri sottili, perché emette nell'aria metalli pesanti che poi vengono veicolati attraverso le polveri sottili, perché scarica nell'acqua fluoruri, perché scarica nell'acqua metalli pesanti, perché scarica nell'acqua una serie di schifezze, perché crea residui e ceneri dannose. Proprio a questo proposito volevo fare una piccola precisazione, senza entrare troppo nel tecnico. Quando si brucia una qualsiasi sostanza di natura organica, un combustibile organico, è sempre meglio bruciare sostanze che siano allo stato gassoso, perché sono più pulite. La cosa peggiore che può essere bruciata sono per l'appunto residui di natura solida, che sono intrinsecamente ricchi di sostanze pericolose, quindi per l'appunto, come diceva Flavio, metalli pesanti, che sono in assoluto dei veleni terribili e difficilissimi da eliminare da sostanze solide. Sostanze come lo zolfo, che è contenuto in grossi quantitativi nei combustibili solidi e che dalla combustione generano poi in definitiva il fenomeno delle piogge acide. Quindi, da questo punto di vista, al di là delle tecnologie che possono essere impiegate, tornare al passato, cioè riconvertire degli impianti da combustibili gassosi o combustibili liquidi che essi siano a combustibili di natura solida, è necessariamente un passo indietro in termini di inquinamento, e questo è qualcosa che non può essere sovvertito da nessuna tipologia di impianto di nuova generazione. Se, come succede a Civitavecchia, esistono degli impianti che fanno meno inquinamento semplicemente perché quelli che c'erano prima erano al limite del tecnologicamente arretrato, peggio ancora. È semplicemente impossibile riuscire a inquinare di meno con un combustibile come il carbonio piuttosto che con del metano. Chiaramente in questo caso la tecnica di cui facciamo tesoro di Pierpaolo non fa altro che a fare che rafforzare delle tesi politiche. Ma andiamo avanti in questo comunicato della Wilchem, in cui intervengono anche dei dirigenti locali. All'unisono le dichiarazioni dei vertici calabresi della Wilchem, che dicono in pratica si tratta di Campana, Martino e Mercogliano, che sono tutti quanti dirigenti locali. In particolare Campana è uno dei principali fautori del comitato a favore della riconversione al carbone di Rossano. Dicono all'unisono: da anni ribadiamo la nostra posizione a proposito della riconversione della centrale di Rossano. Noi conosciamo bene le realtà di altre centrali e sappiamo che non hanno alcuna controindicazione in termini di sicurezza ambientale e dei lavoratori. Chi afferma il contrario è in malafede ed ha interessi diametralmente opposti alla crescita ed allo sviluppo del territorio. Questo è quanto osano dichiarare dei membri sindacali, che sono poi l'avanguardia dei comitati a favore del carbone, che poi sono, guarda un po', lavoratori di Enel S.p.A. E la cosa grandiosa è che in tutti i loro comunicati non si fa altro che dire che loro sono per lo sviluppo e che loro sono per la ricchezza. Chiaramente ci siamo spostati all'improvviso in un campo completamente diverso da quello di cui parlavamo prima, ed è un campo in cui fa bene ricordare che 30 anni fa più o meno le parole d'ordine con cui hanno fatto ingoiare alla Calabria per esempio le schifezze che oggi sono a Crotone, oppure le due ciminiere da 100 metri che oggi sono a Rossano, oppure le liquichimiche di Saline Ioniche, oppure un polo siderurgico di Gioia Tauro che non è mai esistito, erano esattamente le stesse, ovvero crescita e sviluppo del territorio. Perché ci siamo spostati repentinamente su questo argomento? Perché il 18 e il 19 a Savona si è tenuto un importante convegno, un'importante iniziativa nazionale proprio sul carbone, in quanto a Savona Tirreno Power, che sarebbe un'azienda del gruppo De Benedetti, che poi in qualche modo è correlata anche al gruppo che vorrebbe costruire il carbone a Saline, si è tenuto un'importante iniziativa con un teatro di Savona strapieno di gente, dove queste cose noi del comitato di Rossano, noi gente della Calabria, la gente di Brindisi, ha potuto dirle davanti a tutta questa gente, davanti alle televisioni nazionali. Ed è paradossale che in Calabria, ovvero in un posto dove potenzialmente, così come ci attestano anche, così come ci attesta anche piuttosto ingenuamente e semplicemente la gente delle altre regioni, in un posto dove si potrebbe campare semplicemente di economia, turismo, pesca e compagnia bella, e agricoltura, si debba continuare a fermare questi progetti assolutamente scellerati. E anche di questo parleremo il 6 marzo a Lamezia presso la sede USB come rete di difesa del territorio. Si terrà la plenaria di questa rete, che come ricordiamo è stata protagonista in questi mesi di una battaglia sui rifiuti, una battaglia sulle centrali. Si pensi che racchiude per esempio il comitato della centrale del Mercure. A proposito di centrale del Mercure, attenzione alla falsità che, lo dico prendendomi la responsabilità di quello che dico, alla falsità che dice il signor Marcelli, ovvero segretario vertice nazionale della Filcem, quando dice Augusto Pascucci, che dice un attimo che lo trovo, abbiate pazienza che lo trovo, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, dove sono, dov'è, adesso la trovo, no aspettate che adesso la trovo, tanto c'è il sottofondo, ah ecco qui, è Marcelli che dice: abbiamo notizia che l'Enel presenterà un nuovo progetto, bla bla bla bla bla bla, finalmente è stata sbloccata la situazione della centrale del Mercure, continua ancora il segretario nazionale. Una centrale a biomasse che fino a ieri funzionava ad olio combustibile denso e prima ancora a lignite, che ha contribuito a far crescere il territorio della valle, ha trovato tante opposizioni artificiose, ma finalmente sono ripresi i lavori. Questo è un vero e proprio falso ideologico che purtroppo non può essere messo a reato perché il signore qui non so se è pubblico ufficiale, ma è un vero e proprio falso perché questa centrale è ferma da 20 anni. cioè non è fino a ieri, da 20 anni, ed è stata fermata perché sulle città di Viggianello, sulle città di Lenoborgo, cadeva la neve che era il residuato di cenere della combustione di questa centrale, che non ha mai dato sviluppo a questo territorio, anzi ne ha distrutto tutto l'impianto turistico, tutto l'impianto economico agricolo che c'era intorno. Per cui questi sono i soggetti con cui ci troviamo a parlare, e la cosa paradossale è che noi non ci troviamo a criticare in questo momento Enel, oppure Sei, oppure Tirreno Power. Sindacato, i sindacalisti che dovrebbero invece fare gli interessi dei lavoratori e delle classi meno agiate. Esatto, la popolazione purtroppo non si trova a contrastare Enel, che dal suo punto di vista in un regime di mercato libero dice: io voglio fare profitti, a me chi cazzo mi ne frega dalla popolazione? Assolutamente niente. Noi purtroppo ci troviamo a contrastare i suoi faccendieri, e molto spesso i suoi faccendieri fanno capo ad una sigla sindacale. È quello che tra l'altro abbiamo detto anche a Savona, è quello che diremo il 2 marzo quando ci saranno dei sindacalisti a Cosenza, è quello che continueremo a dire sempre, perché alla fine a difendere i lavoratori non ci sono loro, ma quando li metteranno in difficoltà ci saremo noi. Al di là di tutto questo, Peppe Lounge, dopo questa rabbiosa parentesi sull'energia, tutti assolti? Tutti assolti, innocenti. 8 ex amministratori e ex dirigenti del petrolchimico di Marghera. E il fatto non costituisce reato. Della proprietà, un uomo cerca nella giustizia la sua libertà, ma la giustizia è un'insana assurda utopia, rinchiusa negli scranni di finanza e di economia. Ska! Seguono dritte la verità, i sogni lacerati in un'aula di tribunale, due volte uccisi dal capitale transnazionale. Suonano le sirene, fanno a morte gli operai, vedono ma fa finta di non sapere. Magistrati usurai. Sangue scende sulle strade, la dignità di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata alla nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari. Suonano le sirene. Va! Beh, chiaramente noi sappiamo che dietro tutto questo processo di in realtà dietro il pacchetto Colombo degli anni 70, ovvero il processo di industrializzazione miope del meridione, che poi si sfumò in un nulla di fatto, chiaramente c'è Luca Barbareschi. E Luca Barbareschi, che da anni si interessava di biopolitica all'epoca e che è fra l'altro uno dei principali esportatori di carbone del Canada, no? Il famoso carbone canadese che Luca Barbareschi vende tutti i giorni a Fini e a Berlusconi. Esatto. Comunque, siete su scherzi a parte, Luca Barbareschi non se la prenderà se ogni tanto lo citiamo. Dicevamo, quindi, dopo questa breve parentesi sull'energia, c'è da segnalare il fatto che la chiusura della discarica di Pianopoli ha ancora una volta messo in discussione la riapertura di tante altre discariche. C'è una vera e propria emergenza di rifiuti in Calabria. Sappiamo che è in atto negli uffici regionali una pratica per ampliare la discarica di Bucita. La questione dei rifiuti è oggi al centro del dibattito, al centro dell'impegno di noi attivisti del territorio, ed è anche di questo, ovviamente, un altro spot di cui parleremo il 6 marzo a Lamezia presso la sede dell'USB. Questa è Banda Armata, stiamo parlando dall'aula P2 occupata dell'Università della Calabria, stiamo trasmettendo su Fuori Onda Radio, a cui potete accedere su p2occupata.noblogs.org. andiamo in differita alle 16.30 su Radio Ciroma, che ringraziamo sempre per lo spazio che ci concede, e poi alle 21 su Radio Transizione di Fase, il cui sito corretto è transizionedifase.org. Orge, come mi suggeriscono. Oggi siamo un po' tirati con i tempi, però le cose da dire erano veramente tante. E, al di là di questo, ci vediamo chiaramente domani su Canale 5 nella trasmissione Mattino 5, famosa trasmissione di sinistra che va tutti i giorni in onda sul canale del Cavaliere. Ringraziamo il suo conduttore Luca Barbareschi e per questo mandiamo ancora una volta la sigla, che dalla cabina di regia arriverà diretta e splendente come la spada di Lady Oscar. Razzinga! Razzinga! Dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici, Razzinga! Razzinga! Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la chiesa mantiene in dice Razzinga! Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Razzinga! Rosario atomico, Razzinga, lama del diavolo, Razzinga, doppio amen, forte, con uno sguardo spacca in due conclave, dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Razzinga. Fa da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, se hai bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà. Razzinga! Razzinga! Bombe gnostiche! Razzinga! Luce divina! Razzinga! Spada teologica! magica, Ratzinga, sermone perforante, Ratzinga, incenso atomico, Ratzinga, pugno teologico, Ratzinga, croci rotanti, Ratzinga, doppio amen, Ratzinga, ora pro nobis, Ratzinga, acqua santa, diabolica, doppio rosario.